Sono molto contento di avere qua con me ospite uno che è uno degli ospiti più attesi, più ricercati da anni qui al Festival dell'Economia. È la sua prima volta a Trento. Diamo il benvenuto a Sergio Latouche. Buongiorno. Buongiorno. Stavamo disquisendo non tanto di economia in questi secondi, ma questa somiglianza con Sean Connery, che è vero? Hai mai firmato qualche autografo col nome di Sean Connery? No. No, ma lui mi serve di tanto in tanto per le cascate, ma per fare le conferenze è meglio che le faccio io. Ok. Sergio, è difficile presentarti, filosofo, economista, saggista, un po' il padre del concetto di decrescita felice. Ti piace questa, come ti riconosci in questa descrizione? Sì, solo che non uso la battuta decrescita felice, la lascio all'amico Maurizio Palante, che mm-hmm. è il suo... marchio. Sì, parlo di decrescita serena, di crescita conviviale, ma è la medesima cosa. Ecco, venire in un festival dell'economia e parlare di decrescita è una provocazione oggi? Probabilmente sì, ma devo dire, per tutta la mia vita professionale sono stato ufficialmente un economista. Il problema è che ho scoperto e ho cominciato la mia carriera come un economista non ortodosso ma produttivista come tutti, e poi ho scoperto, perché ho lavorato nei paesi, nell'Africa, poi nel Laos, e ho scoperto che l'economia era una religione, la religione del nostro tempo, e ho perso la fede. Per la seconda volta avevo perso la fede cattolica a 18 anni, poi a 24 anni ho perso la fede e sono diventato professore di economia. Era un po' paradossale e per questo ho fatto la filosofia dell'economia. Mm-hmm. E allora qua è interessante perché sono qua per un po' fare la critica del mainstream, sì. Eh? Su questo soggetto dei rapporti tra generazioni, precisamente, c'è un punto cieco gigantesco sia dell'economia come pratica che dell'economia come scienza, e che è la natura. E la natura è il più grosso patrimonio che dovremo lasciare ai nostri figli. Ma in che stato lasceremo questo patrimonio? Sappiamo tutti che la natura l'abbiamo distrutta, che lasciamo un patrimonio molto sgangherato, molto, e allora questo fa che i nostri figli ci accuseranno. Ma questo è un appello quindi a usare anche in chiave economica, ma della sostenibilità, quello che la natura offre. Si parla tanto, per esempio, di ne abbiamo parlato anche prima, di economia verde, di economia ecologica. È quella la direzione, o anche la sostenibilità è una trappola? No, la sostenibilità è una necessità, solo che l'economia sostenibile è un ossimoro. L'economia è costruita sulla distruzione dell'economia moderna, l'economia nel senso che ha preso dopo il Rinascimento, l'economia capitalista, per dirla con il suo vero nome, è basato sulla... è costruito in un modo astratto, al tal punto che nelle funzioni di produzione degli economisti la terra è stata cacciata da 1880, la natura è sparita. Allora si dice, ma non è un grande economista come, lo dirò domani, premio Nobel, Robert Solow, sì. Ha detto, se la natura sparisce non è un problema, perché l'economia ha la pretensione, e gli economisti, di costruire un mondo artificiale. Possiamo rimpiazzare, perché facciamo l'allevamento dei pesci artificialmente, facciamo tutto, e possiamo fare a meno dell'economia. E la tecnoscienza può risolvere tutti i problemi, solo che viviamo sempre più in un'patumeria, che il mondo reale nel quale viviamo diventa sempre più un incubo. Domani, domenica 3 giugno alle 15, ci sarà il tuo incontro, appunto, che si intitola "I nostri figli ci accuseranno". Ecco, questo punto interrogativo invece che un punto esclamativo, nel senso che comunque è una domanda, quindi lasci un po' di spazio alla speranza. Il progetto della decrescita è la soluzione per lasciare ai nostri figli un mondo sostenibile, un mondo nel quale potranno sopravvivere, vivere e sopravvivere, forse vivere bene. Invece, se non cambiamo strada, non sono sicuro che avremo dei figli o almeno dei nipotini. Ecco, e quando ti chiedono di spiegare concretamente il progetto di decrescita, oggi quali esempi porti, quali visioni proponi? Allora è difficile perché è un cambiamento radicale. Ci sono delle esperienze come le città in transizione in Inghilterra, ora vengono in Italia, ma c'era già prima le città lenti, slow cities, la rete dei buoni municipi, eccetera, che sono. Poi ci sono i GAS, gruppi di acquisto solidale, tutto sono piccole esperienze che vanno nel senso di una società d'abbondanza frugale, come lo dicevo, che frugalità e che la frugalità diventa la condizione di una certa abbondanza e soprattutto di una convivialità. E poi abbiamo a livello su scala nazionale due esperienze molto interessanti in America Latina, quella dell'Ecuador e della Bolivia, che hanno iniziato un percorso per realizzare ciò che chiamano Suma Cosai, vedete la parola Quechua che significa buon vivere, vivere bene, e hanno nuove costituzioni dove è scritto che l'oggetto della società non è lo sviluppo, che è una parola occidentale, è Suma Cosai, questo buon vivere, che la natura o la Pachamama è un soggetto di diritto. E quando ci siamo incontrati con soprattutto gli merendiani della CONAI, la Confederazione dei Popoli Indigeni, sì, hanno detto: ma ciò che voi chiamate la decrescita è esattamente il nostro progetto di Suma Cosai, e questo è vero. Ecco, quando giri per l'Europa e porti le tue teorie, gli altri economisti come ti guardano? Non mi guardano affatto, non c'è un dialogo tra... No, sono sempre invitato da antropologi, sociologi, quasi mai da economisti, salvo un piccolo gruppo di economisti italiano, non so se sono rappresentati qua, che sono la scuola dell'economia della felicità, penso a Luigi Nobruni, Leonardo Becchetti... Bartolini, che ha fatto il manifesto per la felicità, che sono bravi. Abbiamo un dialogo da molti anni perché loro sono molto eterodossi, poi cercano di trovare un compromesso tra la filosofia classica, anche il filone del vecchio economia civile di Genovesi, il napoletano del periodo dell'illuminismo, di riallacciare il filo con questa tradizione di un'economia che non si è disincastrata, per dirla con Polanyi, disincastrata del sociale e del politico.